Questi quattro seminari che noi abbiamo organizzati sono stati variamente, si sono svolti in maniera diversa, non sempre con la stessa ricetta. Sono tutti andati a buon fine, speriamo che vada a buon fine anche il nostro. Quando io ho avuto responsabilità diretta nella organizzazione, ho privilegiato la confusione piuttosto che non la unità di lettura. La confusione delle lingue, la confusione dei codici interpretativi, la confusione delle specialità, degli specialismi. Anche questa volta è così. Qui ci sono storici del diritto, storici puri, storici della letteratura, storici non storici come me. Insomma, e quindi bisognerà che abbiate pazienza, lo sforzo è maggiore. Lo sforzo richiesto per seguire è maggiore, il rischio è più alto. Io mi diverto di più e quindi, insomma, sono contento di aver fatto in questo modo. Adesso, purtroppo, tocca sorbirsi poche pagine, sono 5 paginette, 6, insomma, piuttosto confuse, lo devo dire subito, molto confuse, e che però io dopo lunga riflessione ho pensato di leggere lo stesso, perché in un modo o nell'altro dovrebbero insomma, dire quantomeno la difficoltà che io ho provato nel organizzare questa settimana, insieme con il maestro e collega professor Vandus. Intanto abbiamo avuto una difficoltà reale e non fittizia proprio a dare il titolo al seminario. Ogni 2 mesi il titolo del seminario cambiava, perché certo dovevamo parlare dell'Ottocento e dell'Italia e della Germania, ma per il resto che cosa era a interessarci? L'età moderna, di Neuzeit, come categoria storiografica, come periodo, come cronologia, oppure la modernità, di moderne, come categoria filosofica, su cui sono stati scritti scaffali di volumi, oppure ancora il moderno, das moderne o da die Modernisierung, come categoria sociologica. Certamente eravamo partiti dal primo livello, no? Infatti la prospettiva cronologica seriale di tutti i seminari ci ha portato lì. Ma proprio la contiguità fra età moderna e Ottocento ha subito creato problemi. Tanto più che proprio all'incrocio di quella contiguità i filosofi sono soliti rintracciare la nascita della modernità come nuovo stile di pensiero. Di moderne è qualche cosa che si afferma come tematica tra fine Settecento e primo Ottocento. Infatti per analisti, studiosi, esperti di questo problema, come Gumbrecht, per esempio, sono proprio i campi dell'estetica e della filosofia, quelli in cui più si è disputato sul concetto di moderno. Questa modernità, che fra l'altro trova proprio nella storia, come pensiero storico, come ragione storica, una delle sue più specifiche forme di realizzazione. Basta rimandare a Koselleck e anche agli studi, per esempio, che Koselleck ha riunito nella sua antologia Studien zur Beginn della Modernen Welt. Ciò inoltre non è senza conseguenze sul giudizio da dare sull'Ottocento, come secolo di progresso e di incivilimento, con tutte le complicazioni connesse con l'inevitabile rimando al tema complicatissimo della Modernisierung, della modernizzazione, nelle sue implicazioni anche ideologiche e nelle approssimazioni spesso connesse all'uso non rigorosamente teorico di quel termine concetto, che è un concetto che viene spesso usato in modo banale, in modo triviale. Basta segnalare che nell'appena citata silloge di Koselleck, ben 260 su 370 sono di fatto dedicate alla tematica della Modernisierung, in 2 capitoli rispettivamente dedicati a Modernisierungstheorien und historische Anwendung e a Faktoren und Indikatoren der Modernisierung, mentre il terzo capitolo solo si intitola zur Theorie und Erfahrung der Neuzeit, dal che si ricava che anche per l'illustre storico e teorico tedesco il concetto di moderno, di moderne, è situato proprio a cavallo fra quello di età moderna, Neuzeit, e quello di modernizzazione, Modernisierung. Non è inutile perciò una breve introduzione ai lavori del nostro seminario che cerchi di spiegare, da parte degli organizzatori e nella logica dell'intera serie di seminari, che sono dedicati, il titolo completo è 800 in Germania e in Italia, immagini, modelli e miti tra due popoli. Questa è l'intitolazione che la serie inizialmente aveva e che io vorrei mantenere anche questa settimana. Non solo storia della storiografia nell'Ottocento, ma immagini, modelli e miti tra due popoli. Quindi cercare di spiegare l'intreccio di significati palesi e riposti che stanno nel titolo che abbiamo scelto. Parto dall'assunto, da più parti autorevolmente fondato, che l'origine del pensiero storico, dello storicismo, cioè della possibilità e necessità di dare spiegazione alla vita, all'uomo, alla ragione, alla storia, rapportandola al tempo, che questa origine del pensiero storico è essenzialmente da cogliere nella visione del mondo romantica. Con essa non si crede più solo illuministicamente nell'umanità promotrice di una razionalità nuova, ma si crede che lo sviluppo storico è esso stesso vita e che la nozione di vita domina tutto. Lo spirito si è completamente materializzato, compiendo la parabola che aveva iniziato agli albori del moderno pensiero storico, quando l'età dello spirito era stata concretamente vista, da Gioacchino da Fiora ad esempio, non più come semplice attesa della parusia, ma come età improprio in cui gli uomini sono chiamati ad agire in nome di un rinnovamento, reformatio, renovatio, renascentia, che è poi vera e propria modernitas in nuce. Basta vedere, ad esempio, il tentativo di lettura sistematica del moderno in rapporto al cristianesimo, compiuta già nel 1919 da Franz Hofer-Beck, Christentum und Kultur, Gedanken und Anmerkungen zur modernen Theologie. Basta anche però ricordare appunto i lavori del seminario della settimana scorsa, che sono stati tutti su questo tema, perché il seminario era appunto dedicato, come ho detto, a questo problema dell'attesa dei nuovi tempi. E cioè contro il progresso, e non dal progresso, che verrebbe la mentalità storica moderna. Si nega l'esistenza di un ordine unico, atemporale e buono in sé, ma si accettano e si ricercano delle proposizioni variabili che si succedono attraverso i tempi e gli spazi. In questa prospettiva acquista significato primario il problema della formazione, la Bildung, che è concetto chiave della visione moderna neoclassica romantica, come in certo qual modo la institutio era stata centrale nella visione del mondo della prima modernità umanistica. Ma già Cassiodoro, nel VI secolo, nella lettera Simmaco, nel qualificarsi come antiquorum diligentissimus imitator, si proponeva perentoriamente anche come modernorum nobilissimus institutor, segnando così strutturalmente, fin dall'inizio, il nesso fra modernità ed educazione. Il romanticismo proclama il valore della storia tempo, del tempo storico. Tutto, non solo l'estetica e la filosofia, è in relazione col fondo produttivo e misterioso del mondo. Ciò ha certamente a che fare, come dicevo prima, con il concetto di moderno di cui ci stiamo occupando, il quale acquista all'interno del romanticismo vero e proprio valore di Epochenbegriff. In particolare nella versione che ne danno Schlegel e Schiller in risposta alla questione posta da Herder. si viene instaurando come una sorta di cortocircuito fra Medioevo e Romanticismo, come d'altra parte in certo modo si è già visto nel seminario sul Medioevo nell'Ottocento. I due termini diventano quasi sinonimi nella comprensione del presente tedesco, dove moderno può voler dire anche cristiano in contrapposizione a pagano. Ovviamente non si tratta più del Medioevo inteso come caduta fra antichità e rinascimento, ma del Medioevo inteso come sistema di valori e in quanto tale come misura della modernità. Si comprende allora quanto sia corretta e carica di significato la precisazione secondo cui il Medioevo è una creazione dello storicismo, del moderno pensiero storico. Ma diventa anche plausibile che la storia possa o forse debba essere intesa allora come storia moderna, storia intesa come disciplina e non solo come pratica. Inteso cioè come qualcosa, come una forma di conoscenza che si è qualificata già attraverso la produzione della sua propria teoria. Quel che occorre a questo punto dire però è che la rottura della continuità storica che i teorici e gli storici del moderno intravedono nel Romanticismo è stata vista anche con grande autorevolezza in un'altra stagione critica dell'Occidente, il Rinascimento. A questo tema è stato dedicato il nostro seminario dello scorso anno e i risultati sono stati molto buoni, anche nella direzione che qui ci interessa. E nello stesso senso sono andati anche taluni risultati del seminario della settimana scorsa da richiamare. Risulta però sintomatico che per noi storici tout court proprio l'età che va dal Rinascimento al Romanticismo sia l'età moderna in senso tecnico, che è poi l'oggetto più positivo e diretto del nostro seminario, dell'influenza dell'età moderna, nelle diverse coniugazioni storiche e storiografiche avute in Germania e in Italia, sulla formazione della coscienza storica dell'Ottocento, nei due rispettivi paesi, dovremo infatti noi trattare in questi giorni. L'individuo nuovo, restituitoci dalla fisiognomica di Warburg come sintesi estrema del travaglio rinascimentale, finisce per identificarsi con l'uomo che patisce, che lotta e che agisce, assunto dalle meditazioni burckhardtiane a soggetto vero della storicità. In entrambi i casi sembra di trovarsi fra tradizione, pensiero e azione, mentre il superamento del mito nel simbolo sembra essere il segno della modernità, anche nella sua versione storica e storiografica. E qui proprio va forse cercato uno dei motivi profondi e nascosti della serie di seminari ideati e prodotti dal nostro istituto su questi temi negli ultimi anni. È il segno della crisi e della melanconia che viene alla ribalta. Ma per recuperare ancora una volta il Medioevo, si ricordi che già per Bernardo di Chartres, nel XII secolo, omnibus seculis sua displicuit modernitas. Oltre, naturalmente, a quelli ben più appariscenti e apparentemente coinvolgenti del potere dello Stato, quindi è il segno della crisi e della melanconia che viene alla ribalta in questa prospettiva che ho cercato di delineare, oltre, naturalmente, a quelli ben più noti del potere dello Stato, ai quali però dovremo adesso brevemente rivolgerci per concludere questa introduzione e portarla un po' più coi piedi per terra. La prospettazione dell'età moderna come culla della modernità non può non far sorgere rispetto all'Ottocento che qui ci interessa e nella visione storicistica inevitabilmente evolutiva a cui ogni storia disciplina si rifà, la questione della modernizzazione come carattere di fondo dell'Ottocento stesso. Voglio dire che quest'anno interrogarsi sul moderno nell'Ottocento significa chiedersi anche e soprattutto quanto l'Ottocento abbia preso o non preso di modernizzante per sé dai secoli che l'hanno preceduto, appunto l'età moderna. Seguendo una recente e suggestiva indicazione di Elvin, A Working Definition of Modernity, in Past and Present dell'86, Vorrei collegare il carattere del moderno, nel senso sociologico di modernizzazione che qui interessa, al carattere del potere. Segnalo anche un altro saggio molto bello, anche se riferito all'età contemporanea e in modo particolare al problema del fascismo, nella storiografia italiana, un saggio di Tim Mason, intitolato Moderno, modernità, modernizzazione, un montaggio, in Movimento Operaio Socialista dell'87. Quindi collegamento fra modernizzazione e potere nelle tre destinazioni degli esseri umani, potere sugli esseri umani, la politica, natura, potere sulla natura, le attività produttive, l'economia, capacità intellettuali, potere sulle capacità intellettuali, scienza. Sempre seguendo Elvin, vorrei aggiungere i due corollari suoi del potere come capacità di orientare energia, to direct energy, ma io direi di orientare forse energie, in senso sia letterale, pensiamo alla scoperta, alla costruzione delle leggi della termodinamica nel Settecento, ma anche in senso metaforico, ad esempio in campo militare o in campo amministrativo, pensiamo a tutta la storia dell'antico regime, no, quindi della storia delle istituzioni, insomma, dell'antico regime. Quindi questo è il primo corollario, potere come capacità di orientare energia. Secondo, potere come capacità di mutare la struttura di sistemi. La domanda che sorge, alla quale mi piacerebbe che venisse una risposta almeno embrionale dei nostri lavori, è allora la seguente. Come si può spiegare il processo di modernizzazione nei tre principali settori indicati, ma anche in tutti gli altri che vi fanno da contorno, nell'Ottocento, tedesco e italiano, in rapporto ai contenuti di modernità o meno che la storia moderna tedesca e rispettivamente italiana ha avuto? O per meglio dire, in rapporto ai contenuti di modernità che la storia moderna tedesca e italiana ha avuto riconosciuti dall'Ottocento stesso. Secondo, questa domanda si può formulare anche così: in che misura la segnalazione di modernità attribuita o non attribuita ai secoli precedenti, dal XVI al XVIII, dall'Ottocento tedesco e italiano, ha influito sul carattere di modernizzazione assunto dall'Ottocento stesso, contribuendo così a definirne i tratti caratteristici e le specificità? O infine, è concepibile immaginare una storia dell'Ottocento italiano e tedesco, ma il discorso è evidentemente più ampio, che non sia necessariamente legato, sia pure in doppio senso, positivo e negativo, alla storia moderna, al problema della modernità e di conseguenza a quello della modernizzazione? E viceversa. Non si è forse allora costretti ad ammettere che la storia come disciplina, cioè la storiografia o scienza storica, nella sua storica determinatezza romantico-ottocentesca, è geneticamente, quasi statutariamente, segnata dalla necessità di indagare il passato, cioè di ricercare il proprio oggetto, a partire dai propri caratteri costitutivi di modernità, di cui abbiamo fin qui confusamente parlato, tanto che, come diceva ieri sera a tavola adesso Giarrizzo, finisce col non esserci forse più molta differenza fra lo storico dell'antichità e lo storico contemporaneo, da questo punto di vista. Si aprirebbe qui, come è facile intuire, un campo sconfinato di riflessione inerente sia ai contenuti e alle giustificazioni in sé delle singole discipline storiche, sia alla possibilità di una storia globale, sia infine alle metodologie da impiegare per fare tanto storiografia che storia della storiografia, alla luce della determinatezza storica proposta. La quale ultima, a sua volta, va ben oltre l'accertamento che ogni storia è storia del presente e anche oltre l'attenzione sacrosanta alle zeitgebundenen Fragestellungen und Leitbilder, a cui pure ci siamo ispirati nell'immaginare questa serie di seminari. Si tratta del sottotitolo di un'opera famosa e secondo me importante di Ernst Wolfgang Böckenförde, che anche ho avuto l'onore di tradurre in italiano. Occorrerebbe invece confrontarsi con l'ormai vecchia intuizione di Otto Brunner e Werner Conze, poi attualizzata da Reinhard Koselleck, sulla centralità rivoluzionaria dei cent'anni a cavallo fra XVIII e XIX secolo, cioè proprio il periodo di cui stiamo parlando, per quanto concerne il mutamento di significato di vecchi concetti, le griffe, e la formazione di nuovi, in ordine soprattutto alla comprensione e alla descrizione della vita associata. È ovvio il rimando alla grande opera ancora incompiuta, incompleta, dei Geschichtliche Grundbegriffe. Ma un confronto con la Begriffsgeschichte è qui fuori luogo e i nostri lavori potranno semmai soltanto avvalorare l'importanza di dedicare un'occasione futura di riflessione e di dibattito a questo problema della Begriffsgeschichte, semmai come prosecuzione del seminario che abbiamo dedicato l'anno scorso a una prima valutazione dell'opera del nostro, mi riferisco al professor Wandruska e a me, venerato maestro Otto Brunner. Il problema potrebbe anche porsi forse in un altro modo, intrecciandosi con quello della cosiddetta ideologia della continuità. È un'espressione del grande sociologo della cultura tedesco Arnold Gehlen, ideologia della continuità, non del progresso, a cui qualcuno suggerisce di ridurre la modernità storica. Si potrebbe pensare che da ciò, da questa ideologia della continuità, possa derivare una sorta di progressiva immunizzazione, neutralizzazione di ben precisi settori culturali corrispondenti alle cristallizzazioni di valori, ideologie, di ben precisi ambienti, dal più al meno riconducibili nel periodo che ci interessa, l'Ottocento in Italia e in Germania, alla cosiddetta borghesia. Cosicché si potrebbe anche concludere che la modernizzazione non è altro che la progressiva affermazione e istituzionalizzazione di quelle cristallizzazioni, ciò che avviene essenzialmente, sempre in quest'epoca, attraverso la scienza e la politica, come in certa misura ho cercato di dimostrare nel mio ultimo libro, Il laboratorio borghese. Il discorso porterebbe troppo lontano e fuori dai nostri orizzonti. Per ora è meglio tornare agli impegni presenti e iniziare la serie degli interventi previsti in programma. Io non ho inteso dare indicazioni di lavoro o programmi di ricerca, di marcia. Probabilmente nessuna delle relazioni previste si muoverà nella direzione da me indicata, ed è giusto così. Sono però sicuro che tutti gli esperti invitati hanno molto da dire anche su questi problemi un po' esoterici che io ho evocato. Per questo motivo, fra l'altro, si è preferita una composizione interdisciplinare del nostro gruppo piuttosto che una rigidamente da storico. Per quanto tocca a me, che storico sono sempre meno, cercherò nel corso della discussione di evidenziare con pazienza, con tenacia, tutti gli spunti emergenti in ordine ai problemi che ho cercato di porre e che riguardano, in buona sostanza, la doppia interferenza che il moderno ha con la scienza storica, sia pure con particolare riferimento all'Ottocento italiano e tedesco. Molte grazie.